Se il risultato elettorale finale convincerà governo e maggioranza di avere davanti a sé ancora 2 anni di lavoro, la loro agenda deve concentrarsi su un'unica priorità, la crescita. Questo significa semplificazione e liberalizzazione subito, infrastrutture subito, riforma fiscale subito. Queste sono le nostre richieste. Ma al di là del voto amministrativo ci sono 3 considerazioni di fondo che orientano le nostre convinzioni, il nostro agire, il nostro giudizio. Primo, il decennio perduto alle nostre spalle in termini di minore competitività e mancata crescita viene da divisioni e lacerazioni interne a ciascuno dei 2 poli della politica, alle prese con fratture e problemi di leadership personali anteposti al benessere del Paese. Noi non vogliamo più questa alta conflittualità all'interno degli schieramenti e tra gli schieramenti. Secondo, ora che le difficoltà della maggioranza sono evidenti nel giudizio popolare, non per questo possiamo tacere che l'opposizione, tra spinte antagoniste e frammentazione, è ancora incapace di esprimere un disegno riformista. Noi invece speriamo che questo possa accadere. Terzo, un avviso finale. Come imprenditori, noi facciamo a testa bassa e maniche rimboccate il nostro mestiere. Ma attenti. Diceva Max Weber: vengono talora momenti tanto gravi nella vita di una nazione in cui la testimonianza pubblica di chi vive di integrità privata non è più un diritto civile, ma un vero e proprio dovere morale. Io davvero non ho dubbi. Nei momenti difficili della vita del Paese di grande discontinuità, noi imprese italiane, noi Confindustria siamo stati pronti non solo a tutelare le imprese, ma a batterci con tutte le forze per gli interessi generali del Paese. Allora, in un momento così, noi saremo pronti a batterci per l'Italia, anche fuori dalle nostre imprese, con tutta la nostra energia, con tutta la nostra passione, con tutto il nostro coraggio. Viva l'industria, viva il lavoro italiano, viva l'Italia!